Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, ultima puntata di Mr. Kilowatt, la dedichiamo a cercare di far luce sui prossimi sviluppi nei settori del risparmio energetico e delle rinnovabili, e chi meglio dell'onorevole Stefano Saglia, sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega all'energia, può aiutarci, insomma, a decifrare i prossimi passi del governo in queste direzioni. Buonasera Saglia, benvenuto a Mr. Kilowatt. Buonasera. Allora, c'è stato il famoso articolo 45 della manovra che impedisce al GSE di ritirare i certificati verdi. Non entriamo nei dettagli tecnici per i nostri ascoltatori, ma di fatto la cosa ha preoccupato molto i produttori di rinnovabili, soprattutto di biomassa e in secondo luogo direi di eolico. Cambierà qualcosa? Ieri ho partecipato ad una riunione con i vertici della maggioranza, del PDL e della Lega. Da parte di tutti c'è la consapevolezza che questo articolo 45 non va bene. Io l'ho detto sin da subito. Detto questo, però, cosa abbiamo proposto ieri, e credo di aver convinto anche gli altri colleghi di governo, che l'attuale sistema non possa essere interrotto per decreto dalla sera alla mattina, perché mette in discussione tutti gli investimenti. Allora manteniamolo in vita sino a quando non avremo recepito la direttiva europea, la terza direttiva sulle rinnovabili. Sino a quel momento l'attuale sistema deve rimanere in vigore. Dunque, piano nazionale di azione per le energie rinnovabili è uscito settimana scorsa, ci sono alcune novità particolarmente significative. Intanto è emersa la questione, la necessità di prevedere meccanismi di incentivazione per quanto riguarda gli usi termici delle rinnovabili, che finora sono stati abbastanza trascurati a vantaggio di quelli elettrici. Avete in mente un modello di incentivazione preciso? Ma il modello di incentivazione resta il conto energia. Noi vorremmo lavorare anche sul termico per due ragioni. La prima è che, lo diciamo a bassa voce, molte imprese italiane lavorano nel solare termico, certo. Quindi sicuramente più di quanto non lavorino nel solare fotovoltaico. E c'è anche un vantaggio, perché a livello industriale, come dire, delocalizzare questo tipo di produzione è più difficile, perché è più difficile spostare questa roba. Assolutamente sì, e quindi è un ulteriore sostegno alla industria nazionale. Dall'altro ci può essere un beneficio notevole per tutto quello che è, diciamo, certo, il risparmio anche di gas. Ecco, perché tra l'altro proprio il piano nazionale prevede notevole livello di risparmio energetico, perché anche le, come dire, i risultati che vengono indicati si raggiungono solo se riusciamo a tenere molto sotto controllo il risparmio energetico. Assolutamente, risparmio ed efficienza anche negli usi finali. Il solare termico è un ulteriore strumento, perché ovviamente sappiamo bene che il riscaldamento per noi significa gas fondamentalmente. Certo, certo. Ecco, ci sono dei problemi di natura infrastrutturale. Da un lato abbiamo la rete elettrica che non riesce a star dietro alle rinnovabili. Ancora una volta l'anno scorso si è perso il 10% dell'energia eolica prodotta in Puglia, e qui mi chiedo se riuscite a dare un impulso, perché la rete, insomma, sembra veramente fare fatica a star dietro alle richieste. Allora, ci sono due problemi. Uno sono le grandi reti. Faccio un esempio per tutti: l'elettrodotto dovrebbe collegare la Sicilia e la Calabria è ancora oggetto di valutazioni da un punto di vista ambientale. È un progetto che ormai ha 15 anni ed è un progetto che, questo sì, divide di più l'Italia di qualche dichiarazione sulla nazionale di calcio, certo. Nel senso che ci sono due pezzi d'Italia che hanno trattamenti differenti da un punto di vista energetico, e solo il prezzo unico nazionale li armonizza. Quindi ci sono le grandi congestioni che possono essere risolte solamente dal governo, da Terna e dalle regioni, perché purtroppo qui bisogna fare un piano sulle reti con un accordo forte con le regioni. La stessa cosa vale per alcuni trasferimenti di energia. Cioè, allora io vorrei dire alle regioni, e sto cercando di dirlo in questi giorni, che siccome sono tutti sensibili, e ci fa piacere, al tema delle rinnovabili, devono essere anche sensibili ai collegamenti alle reti. Per questa ragione noi abbiamo un progetto che abbiamo deciso di destinare soprattutto alle cosiddette smart grid, insomma alle reti intelligenti, che riguarda soprattutto il mezzogiorno, proprio perché è lì che c'è uno sviluppo, diciamo, poderoso delle fonti rinnovabili. Certo. È un progetto che coinvolge Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, e sul quale scommettiamo molto, diciamo, per ammodernare alcuni tratti della rete, perché le risorse ci sono, bloccate in questo momento, c'è qualche miliardo, credo. Ci sono alcuni miliardi di euro che sono trasferiti a Terna per fare le infrastrutture, ma a volte non è colpa di Terna se non si fa. Ecco, in generale c'è questo problema, diciamo, dei costi autorizzativi. Le associazioni di categoria sostengono che il 20-30% dei costi di un nuovo impianto da energie rinnovabili è legato alle autorizzazioni e a questi aspetti. Qui come si fa a ridurre drasticamente questo problema senza ovviamente fare disastri ambientali? Ma non credo che sia questo il problema in fondo. Ma ovviamente nulla contro i professionisti, gli avvocati e tutti coloro che si sono esercitati in questi anni a sviluppare i progetti, però in Italia è nato la figura dello sviluppatore, proprio perché l'operatore aspetta che arrivi da lui uno sviluppatore e gli metta in mano le autorizzazioni. Sicuramente il fatto che noi oggi abbiamo sul tavolo 157.000 megawatt di domande è una follia, perché è il triplo di quello che ci serve. Ecco, è il triplo della produzione nazionale di energia, cioè è una quantità folle. Come fare a frenare questo aspetto? Sicuramente mettendo la fideiussione, cioè mettendo la garanzia che un operatore, impegnando una somma di denaro che ovviamente non spende qualora non dovesse ricevere autorizzazione, però significa che ha una certa solidità, una certa possibilità di portare a termine il progetto. C'è un progetto vero, serio dietro, altrimenti ci può essere semplicemente appunto qualche tentativo di speculazione. Esatto. Grazie onorevole Saglia. Grazie a voi. Grazie anche a tutti gli ascoltatori per aver seguito Mr. Kilowatt durante tutta l'avventura, iniziata ormai a novembre. Radio 24 però continuerà a parlarvi di energia per tutta l'estate con una nuova trasmissione settimanale, Archimede tra passato e futuro. Da Maurizio Melis, buon fine settimana e buone vacanze a tutti.